Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria chiaramente sono due, li ha ricordati anche poco fa il nostro GR24, i due temi principali, ossia Mario Draghi che annuncia che da gennaio verrà ridotto alla metà l'acquisto mensile di titoli di Stato, da 60 miliardi si passerà a 30 miliardi per l'area euro, ma attenzione, lo fa in una maniera molto morbida, ricordando anche che manterrà i tassi a zero, ricordando anche che la Banca Centrale Europea è ready to act, come dice Draghi, cioè pronta ad agire e a reagire, aggiungo io, anche in senso contrario, nel senso che Draghi ha fatto capire che non è un tapering, cioè non è un ridimensionamento che va verso lo zero, è una ricalibratura delle misure, non è un distinguo da poco. E soprattutto che l'economia dell'area euro è in sensibile miglioramento, è il 14° trimestre di crescita dell'economia, ha ricordato Draghi, 7 milioni di posti di lavoro creati nell'area euro in 4 anni, però ha detto per carità l'economia è in ripresa, l'inflazione non è come vorremmo perché dall'1,5% dovrebbe scendere all'1-2%, per cui andremo a ridurre l'acquisto di titoli di Stato, ma manteniamo i tassi a zero. E soprattutto siamo pronti anche a cambiare nuovamente rotta, nel senso che se dovessimo vedere un rallentamento economico o un peggioramento della situazione, questa decisione non è un tapering, cioè non è una riduzione continua, è intanto un taglio e poi vediamo che cosa succede. Lo dico perché da questo punto di vista i mercati hanno reagito bene perché hanno avuto la BCE sia la conferma che l'economia dell'area euro sta andando e sta procedendo a un ritmo più sostenuto delle attese, sia però che la BCE non ha iniziato uno smarcamento, diciamo un'evacuazione dal QE e quindi dal quantitative easing, dallo stampaggio di euro acquistando titoli di Stato, ha detto l'economia va meglio, riduco l'acquisto di titoli di Stato, però sono pronta a tornare sui miei passi se fosse necessario, quindi ha mantenuto, diciamo, l'ombrello, la rete teorica. Certo è che poi ne ragioneremo, non si può immaginare che la BCE continui a comprare all'infinito titoli di Stato e quindi per quello che riguarda l'Italia continui a farsi carico anche del rischio Italia sui mercati, perché poi questo è, quando tu sai che c'è la BCE che compra in ultima istanza, è la BCE che si sta accollando il rischio Italia sui mercati, il rischio debito italiano. E quindi dà anche un segnale a tutti gli altri. E ha mantenuto lo spread, il differenziale con i titoli, i Bund tedeschi, a un livello assolutamente accettabile, sotto il 2%. Il punto è che appunto non si può immaginare che la BCE continui a stampare e acquistare titoli di Stato, anche perché ormai gli asset, gli attivi in pancia alla BCE sono quasi 4.000 miliardi di euro, 4 trilioni di euro, e cioè inizia a essere un attivo che è simile a quello della Federal Reserve. Prima o poi inizierà anche a ridurre, altrimenti il rischio bolla si porrà. È presto per dirlo, nel senso che Mario Draghi è stato molto prudente, ma è chiaro che alla fine il conto più attendibile è che questo vorrebbe dire, insomma, la fine del quantitative easing vorrebbe dire per l'Italia al 2020 un carico maggiore di interessi sul debito intorno ai 25 miliardi. Queste sono le stime che vengono fatte dagli osservatori. E questo è il primo aspetto. L'altro aspetto riguarda invece la conferma, avete ascoltato, di Ignazio Visco come governatore della Banca d'Italia, la lettera appunto inviata dal Premier Gentiloni. Non ho notizie sulla quanto verrà invece in Consob, dove anche lì è in scadenza Vegas, il presidente di Consob, e dovrebbe in questo modo chiudersi una vicenda che si è aperta, ricorderete, la settimana scorsa con la mozione del PD in aula. Un altro tema che toccheremo oggi però è il rapporto annuale di Intesa San Paolo e Prometeia sui settori industriali italiani, dove emerge una cosa su tutte, che la redditività, quindi anche il ROI, il ritorno sugli investimenti, è tornato ai livelli pre-crisi, è arrivato, diciamo, sopra l'8%, solo di poco inferiore al livello pre-crisi, con un buon andamento di alcuni settori soprattutto quelli a medio-alto contenuto tecnologico. Mi riferisco a automobili, motocicli, farmaceutica a largo consumo, soprattutto la cosmesi e elettrotecnica. Questo è importante perché è una fotografia per ogni singolo settore industriale, questi sono, diciamo, gli elementi principali. La borsa, però, visto che vi accennavo, buona la reazione in tutta Europa, nel senso che Parigi fa più 1,50, Francoforte fa più 1,30, la differenza la si vede con Londra, che non è nell'euro e fra poco non sarà neanche più in Europa, che guadagna solo lo 0,40%. Milano più 1,50%, bene, molti titoli, c'è un balzo molto forte di ST Microelectronics più 11,20%, bene anche Fiat Chrysler più 3,33%, ST Microelectronics si muove sui conti trimestrali, migliore delle attese, il resto invece è più notizie di mercato, Campari più 3%, Finecobank più 2,80%, Enel più 2,70%, Italgas più 2% come Prysmian ed Exor. Di negativo c'è poco oggi, come si può intuire, Saipem meno 1,30%, Moncler meno 1% come Ferragamo, Jux e Taporte meno 0,60% come Telecom Italia e Biper Banca. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e come sempre anche la diretta su Facebook. Sì, un altro elemento importante di quello che ha detto Mario Draghi, ma poi lo ascolteremo, è che l'attuale livello dei tassi di interesse, cioè a zero, sarà un livello che andrà avanti per lungo tempo e ben oltre l'orizzonte degli acquisti del quantitative easing. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che anche quando la BCE dovesse ridurre completamente, azzerare gli acquisti, Mario Draghi ha detto che i tassi resteranno a zero. Vogliamo l'inflazione, perché l'inflazione di base continua a rafforzarsi, sostenga gli sviluppi, ha detto Draghi, infatti è ancora necessario un ampio grado di accomodamento monetario, cioè di tassi a zero o quasi, e anche questo è servito ai mercati per far capire che un conto è il binario del QE e un conto sono i tassi di interesse. Andiamo all'Italia, dove c'è un dato interessante, nel senso che il dossier statistico immigrazione 2017 presentato oggi dall'IDOS a Roma, che utilizza anche indagini internazionali Gallup, praticamente si è arrivati sostanzialmente a un pareggio tra gli immigrati regolari in Italia e gli emigrati italiani all'estero. Comunque gli italiani espatriati nel 2016 sono almeno 285.000. Ma la cosa impressionante è che secondo un'indagine, è chiaro che è un'indagine, un sondaggio, va preso con le pinze, però un terzo dei residenti in Italia vorrebbe emigrare e siamo al 10% in più rispetto alle percentuali degli altri paesi. Tra l'altro, mentre nei 4 decenni pre-crisi i flussi di uscita erano andati riducendosi, sono tornati ad aumentare. Ancora, per quello che riguarda la fiducia dei consumatori italiani, sale anche a ottobre. Per quello che riguarda la fiducia delle imprese italiane, sale a livello più alto, quella misurata dall'Istat, dal 2007, tra l'altro è il quinto mese, dal giugno 2007, tra l'altro è il quinto mese che cresce anche la fiducia dei consumatori. Volete l'euro su dollaro, avete ragione, non l'ho dato, è calato e adesso è anche sotto quota 1,17 a 1,16,97, anche questa è una buona notizia per chi opera nell'area euro e deve esportare. Allora andiamo, vediamo se la querel, più che la querel, voglio dire, ogni volta che si è nominato un governatore della Banca d'Italia, salve alcune eccezioni, c'è sempre stato un po' di attesa. Ricordo quando era segnale di missioni Fazio, arrivò Mario Draghi, il passaggio Draghi Visco fu un pochino più veloce, ma insomma non c'è nulla di cui stupirsi. Detto questo, mi sembra che con la lettera mandata dal Presidente del Consiglio Gentiloni si chiuda tutto il dubbio e la questione chi sarà il prossimo governatore della Banca d'Italia. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Allora, il Consiglio Superiore della Banca d'Italia è stato convocato per domani mattina alle 8.30 per esaminare, secondo la procedura e di concerto, appunto la proposta del Presidente del Consiglio di nomina del Governatore della Banca d'Italia. E il Consiglio Superiore della Banca d'Italia deve fornire un parere necessario ma non vincolante prima che avvenga la nomina vera e propria da parte del Presidente della Repubblica con un decreto. Tra l'altro Visco era a Francoforte dopo l'incontro della Banca Centrale Europea, è ancora a Francoforte, quello che abbiamo capito, rientra in serata. Devo dire che Renzi era stato di nuovo molto chiaro su questo ieri a Porta a Porta. Io non avrei riconfermato Visco, ha detto: Gentiloni la pensa diversamente, ma non è una mia sconfitta. Spero che i prossimi 6 anni siano migliori di quelli trascorsi, peggiori un po' difficile, ci interessa più il futuro dei risparmiatori che dei governatori. Io non ho niente di personale contro Ignazio Visco, anzi ci abbiamo lavorato in questi anni, do semplicemente un giudizio di merito. A mio giudizio in questi anni un qualsiasi cittadino che sta a casa oggi si rende conto che qualcosa non ha funzionato nel settore delle banche. In primis, a mio giudizio, per responsabilità di alcuni banchieri, di alcuni manager bancari che hanno preso un fracco di soldi e che non si sono comportati bene. Seconda di poi, per mancanza di vigilanza efficace da parte della Banca d'Italia. E terza, per le connivenze tra una parte di politici e una parte di banchieri. Però la sostanza è che ha funzionato bene in questi 6 anni il sistema bancario o no? Per me no. E quindi, a mio giudizio, sarebbe stato più opportuno un cambio. Nella logica dell'etica della responsabilità, hai fatto bene, vai avanti, non hai fatto bene, vai a casa. Il Presidente del Consiglio è presumibile che abbia un'opinione diversa, lo dirà lui domani, e dopodomani, insomma, quando il Presidente riterrà, e di conseguenza io penso che si debba rispettare la scelta del Presidente Gentiloni, dicendo con chiarezza che ci auguriamo che i prossimi 6 anni siano migliori dei 6 appena trascorsi. Peggiori penso sia un po' difficile, spero che siano migliori per Visco, per la Banca d'Italia e soprattutto per i risparmiatori, perché a differenza di altri sono più preoccupato del futuro dei risparmiatori che non del futuro dei governatori. Beh, mi sembra insomma molto chiaro il ragionamento di Renzi anche sulle responsabilità e manager bancari, autorità di vigilanza, quindi Banca d'Italia e Consob in alcuni casi, e poi connivenza con la politica. Io avrei aggiunto personalmente anche connivenza con varie con il tessuto dei poteri locali, perché nel raccontare la Vicenza ma anche l'Etruria o Veneto Banca ci siamo accorti che forse qualche procura era sonnecchiava, qualche ex ispettore della Banca d'Italia era stato assunto da Zonin e via così. Tra l'altro io direi: ma perché la Banca d'Italia non fa un regolamento in cui un ispettore, quando si dimette, non può andare a lavorare per un vigilato? Professor Donato Masciandaro, docente di economia monetaria alla Bocconi di Milano, buonasera di nuovo. Buonasera, grazie per l'invito. Nonché editorialista del Sole 24 Ore, lei era con noi in diretta, non l'avevamo fatto apposta, quando arrivò la notizia proprio pochi minuti prima dell'inizio della diretta che dell'emendamento del PD che chiedeva di dare una discontinuità e di non confermare Visco, e l'ha commentata a caldo con noi. Ecco perché mi fa piacere che sia tornato adesso che la vicenda si è chiusa praticamente. Prima di avere grazie dell'invito. Quindi non parliamo di Draghi ma di Visco. Parliamo di Draghi, adesso parliamo anche fra poco di Draghi, ma anche. Però una cosa, il tema è una mia così naivete, o il tema che gli ex ispettori della Banca d'Italia non devono andare a lavorare per le banche che hanno vigilato potrebbe essere una buona regola per il futuro, visto che questo in realtà è accaduto nel passato, almeno nel caso della Popolare di Vicenza? In generale tutte le norme che possono abbassare i conflitti di interessi sono benvenute, quindi questa idea è interessante. Quello che si tratta poi di capire in generale sulle revolving door, quando quanto siano, anche in termini di poi di appetibilità, perché parliamoci chiaro, già oggi lavorare nelle istituzioni pubbliche rispetto alle banche private non è molto conveniente. Per cui più paletti si alzano rispetto ai pubblici dipendenti, più bassa è la probabilità che si attraggano i migliori. Quindi in generale tutte le idee sono benvenute, poi bisogna calarle nel contesto specifico. Un commento da lei, sì, ho capito cosa dice lei, basterebbe però vietare un conflitto di interessi sulle vigilate, ecco, non dico che non debba più lavorare dopo che ha fatto l'ispettore della Banca d'Italia, ma non magari andare a lavorare per la banca che hai vigilato, perché lì il conflitto di interesse è chiaro. Senta, professor Masciandaro, invece un commento lo vorrei anche sulla conferma, su come si è conclusa questa vicenda, e poi arriviamo invece a Mario Draghi. La conclusione è quella da paese normale, quello che era invece da paese del mondo, così non offendiamo nessuno, era l'agitarsi del partito di maggioranza relativa che sembra calato da Marte, mentre invece ha avuto responsabilità di governo, credo, negli ultimi decenni. Quindi la gestione elettoralistica del tema della nomina del governatore, questo paese se la poteva risparmiare, ecco. E invece adesso veniamo anche al commento che poi torneremo, di cui poi torneremo a parlare, di Mario Draghi, però visto che l'ho qua, professore, Draghi è piaciuto particolarmente oggi ai mercati. Io ho inteso perché da un lato va a ridurre il quantitative easing da gennaio, lo porta da 60 a 30 miliardi, ma ha detto non è un tapering, ripeto, non è un dettaglio questo, cioè non è una riduzione progressiva, intanto lo riduco così e poi vediamo, capace anche che torni sui miei passi. E poi perché ha detto guardate che i tassi resteranno bassi a zero anche dopo il QE, cioè un orizzonte ben più lungo. Un commento su questo, ricordando che però Mario Draghi il 2019 scade. Draghi sta cercando di tenere la barra dritta tra i falchi e le colombe che lui ha nel Consiglio. Le colombe mai vorrebbero vedere la fine dell'espansione monetaria, i falchi avrebbero voluto vederla già da qualche tempo. Lui sta mantenendo un atteggiamento prudente. Il malato è convalescente, ma quindi la buona notizia è che è convalescente, la cattiva notizia è che la malattia non sappiamo se è finita, quindi mi sembra una pazienza molto saggia. Bene, e devo dire che in questo modo l'hanno giudicata anche i mercati. Lei ritiene che a questo punto si possa approfondire, professore, anche il tema che a noi ci sta particolarmente a cuore? A questo punto vuol dire, una volta stabilizzata, diciamo così, la Banca d'Italia, il tema del trattamento dei non performing loans, delle sofferenze bancarie in Europa, e quindi più che Draghi le annui, cioè che dal 1 gennaio queste nuove regole europee non diventino una nuova stretta al credito bancario verso le imprese italiane? Quello che bisogna sperare, più che della normalizzazione della politica monetaria, andrebbe normalizzata la politica di vigilanza, che è diventata uno strumento tossico, perché non solo viene mosso troppo e quindi ha effetti ciclici, ma viene mosso da soggetti che hanno troppa discrezionalità, come sono i supervisori, che nonostante seduti nello stesso palazzo della politica monetaria, in realtà appaiono molto autoreferenziali. Quindi l'augurio è di una normalizzazione della politica di vigilanza. Ecco. Ma è un augurio la NUI che cambi atteggiamento? Io non so se le persone cambiano, io so che devono cambiare le regole, la discrezionalità essere uno strumento di politica congiunturale, e la discrezionalità deve essere minimizzata quando si disegnano le regole bancarie. E questo è riferimento appunto all'atteggiamento che ha il comitato di sorveglianza appunto della NUI dentro il grattacielo di Francoforte, ma si sta muovendo in maniera un po' strana, ripeto, secondo me è molto lasco con i titoli tossici derivati che hanno in pancia le banche del centro-nord, è molto severo con le sofferenze bancarie e il recupero di queste sofferenze bancarie dei paesi del centro-sud. Condivide o no? Assolutamente sì, sono i problemi della discrezionalità. Quando si hanno troppi margini di libertà e si autoreferenziali, si rischia di fare guai. Grazie anche al professor Donato Masciandaro. Adesso andiamo su meteo e pubblicità, perché poi la puntata è molto densa, visto che torneremo anche sui temi di BCE, reazione dei mercati e atteggiamento di Mario Draghi, però vorrei affrontare dopo meteo e pubblicità l'analisi rapporto annuale dell'Intesa San Paolo e Prometeia sui settori industriali, dove c'è qualche buona notizia, anche qui non per tutti i settori industriali purtroppo. Complessivamente la redditività è tornata ai livelli pre-crisi. Anche qui la media rischia di essere delle volte un po' di trilussa, perché alcuni vanno particolarmente bene, altri segnano un po' il passo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. La natura di prima mano vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, gli scenari economici del paese come descritti dal 92esimo rapporto sull'analisi dei settori industriali di Intesa San Paolo e Prometeia. L'industria italiana è il titolo alla prova della ripresa, trainata, se ho ben capito, dal comparto della meccanica, e soprattutto poi in generale dai settori a medio-alto contenuto tecnologico. Letta in maniera sintetica l'analisi, si nota un rafforzamento del manifatturiero grazie proprio al settore della meccanica, e in un'ottica 4.0, cioè in un'ottica di digitalizzazione e di investimenti sull'innovazione digitale dentro le imprese. Bene anche automobili, motocicli, farmaceutica a largo consumo, in particolare la cosmesi e l'elettrotecnica. A me ha colpito però molto un altro titolo di questo rapporto: la redditività del settore manifatturiero è tornata ai livelli pre-crisi, al 2007 sostanzialmente. Chiedo conferma, e ci aiuti anche a capire che cosa vuol dire questo prima di generare equivoci, al capo economista di Intesa San Paolo, Gregorio De Felice. Buonasera. Buonasera, buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, redditività ai livelli pre-crisi, perché uno ascolta così e dice: ecco che adesso ci raccontate che la manifattura italiana è tornata ai livelli pre-crisi. Io questo film non lo vedo, a parte che è un dato aggregato, ma che cosa significa soprattutto? Beh, questo dato significa che le imprese che non sono cadute durante questa gravissima recessione sono probabilmente le imprese migliori, le imprese che hanno adottato le strategie più forti in termini di espansione all'estero, di innovazione, di ricerca della qualità, e quindi quel 75% di imprese che ancora esiste, ricordiamo che ne abbiamo perse circa un quarto durante questa crisi, l'evoluzione, io non direi darwiniana perché è stata forzata da una doppia recessione, vede le imprese permanenti avere dei buoni livelli di redditività. I tassi di interesse sono più bassi, sono, ripeto, le imprese che hanno superato le difficoltà, e quindi si vede un ritorno sugli investimenti dell'8,2%, prima della crisi era 8,7%, quindi sostanzialmente siamo tornati a quei livelli di redditività. Ecco, lei fa bene, è felice a ricordare, perché così inquadriamo anche un conto, notare un miglioramento. Se non voglio usare l'esempio del professor Masciandaro di prima, ma un conto è dire che il paziente non è più sotto osservazione, è in convalescenza, cioè si sta riprendendo. Altra cosa è il negare che vi sia stata una malattia gravissima e che questa non abbia indebolito il corpo, per usare l'esempio medico e clinico, per cui se ti becchi un'altra malattia non si sa bene come tu possa reggere. Quando le dice un quarto delle imprese sono scomparse, io ogni tanto uso questa immagine: prendete una tipica area industriale di questo paese, le zone industriali dove stanno i capannoni, levate un quarto di tutti i capannoni e avete capito che cosa è successo al paesaggio economico industriale di questo paese dal 2008 in poi. L'ho interrotto, De Felice. No, ecco, ha fatto una descrizione molto giusta, cioè quindi va inquadrato questo ritorno di redditività che riguarda le imprese che sono sopravvissute. La crisi ha lasciato morti e feriti, nel senso di capannoni abbandonati, di persone che hanno perso il lavoro e di situazioni in molti casi drammatiche. E chi è sopravvissuto? Quindi la parte più dinamica, più brillante, più forte del nostro sistema produttivo è tornata ad avere livelli di redditività che c'erano nel 2007 e nel 2008. Quindi balletta in questi termini. Ecco, chi è sopravvissuto è tornato a lavorare come nel 2008. De Felice, che cosa è molto diverso, chiaramente, un settore come la meccanica da un settore come il largo consumo o la farmaceutica o l'elettrotecnica? Ma c'è un fil rouge, un comune denominatore nei settori che sono cresciuti di più nella componente manifatturiera? Sì, il comune denominatore è l'innovazione. L'innovazione è la capacità di essere flessibili. Questo, con la prospettiva della digitalizzazione, può garantire un buon supporto, un buon vantaggio a un sistema di piccole e medie imprese come quello italiano. Abbiamo sempre pensato che la grande impresa, quella tedesca per intenderci, potesse avere dei vantaggi sull'Italia. Se noi consideriamo che il nostro sistema è spesso connesso in una filiera produttiva e con la digitalizzazione riusciamo a rendere molto più efficace questa connessione, allora c'è una possibilità forte e importante di riscatto e di competizione con l'impresa tedesca che senza digitalizzazione forse avremmo fatto un po' fatica a ottenere. Quindi molto bene un'azione di sostegno trasversale che favorisce un processo di sfruttamento di quello che il digitale può consentire alle imprese italiane. Sì, che non significa solo introdurre un po', beh, se non possiamo fare la puntata sull'industria 4.0, ma non significa solo introdurre un po' di information technology, significa avere le macchine che dialogano tra di loro, i pezzi che produci che ti avvisano prima dei problemi eventuali. Lo dico perché il ragionamento che fa il professor De Felice riguarda anche e soprattutto tutta la subfornitura o fornitura che noi facciamo ai grandi colossi tedeschi. Cioè, la nostra meccanica industriale è al primo posto nell'export perché, oltre che produrre prodotti finiti, produce anche molti prodotti che servono come componentistica all'industria tedesca per arrivare poi al prodotto finito, non solo l'automobile ma moltissimi altri settori. De Felice, voi stimate un PIL quest'anno leggermente superiore anche alla revisione ottimistica del governo, dall'1,5%, voi dite all'1,6%. Dite però che la dinamica della domanda interna è superiore alle aspettative. Sì, noi eravamo piuttosto cauti sull'andamento dei consumi, vedevamo un rallentamento dei consumi rispetto al 2016 e i dati, le indicazioni, anche gli indici di fiducia odierni, quello dei consumatori, ci stanno invece dando delle smentite in positivo, nel senso che il reddito disponibile delle famiglie italiane in aggregato sta aumentando, c'è un tasso di partecipazione al mercato del lavoro che è più ampio, in particolare sul fronte della partecipazione femminile, e tutto questo ci ha spinto a rivedere verso l'alto l'andamento dei consumi. A questo si affianca la ripresa degli investimenti, non ancora fortissima nei dati di contabilità nazionale, ma ci aspettiamo che il terzo trimestre mostri qualche cosa. Nel terzo trimestre vedremo anche gli effetti concreti di un andamento del turismo che è stato per certi versi eccezionalmente positivo. Quindi da qui una previsione del dato del terzo trimestre allo 0,5% che se poi confermato nel quarto porta alla crescita di quest'anno all'1,6%. Ultima nota, visto che poi ci sposteremo di nuovo anche sulla Banca Centrale Europea dopo i mercati, che cosa potrebbe andare storto, nel senso che noi sappiamo già che nel 2018 le previsioni sono di un tasso di crescita in linea, forse un po' più basso. Però lei oggi ha detto, insomma, il prolungamento del quantitative easing tempera l'isteria, dei mercati, e i mutui per le famiglie saranno ancora bassi, e quindi chi vorrà avere poi dei rendimenti a tassi bassi in generale come investimento deve assumersi un po' di rischio. Che cosa potrebbe andare storto rispetto a questo scenario? Può andare storto avere una politica commerciale americana che diventa protezionistica, una crisi finanziaria in Cina e una ripresa dell'inflazione che oggi nessuno vede, ma qualora dovesse esserci farebbe cambiare le carte in tavola alle banche centrali di tutto il mondo, quindi anche alla Banca Centrale Europea, e quindi lo scenario di tassi bassi a zero negativi per quanto riguarda l'Euribor potrebbe rapidamente cambiare. Ecco, questa sarebbe una di queste tre variabili che dovesse andare storta, potrebbe modificare in negativo lo scenario. Allora, d'accordissimo invece con chi scrive, sì, siamo tornati ai valori del 2008 perché abbiamo perso un quarto dell'impresa. Non è esatto. Cioè, allora, tu non torni ai livelli del 2008 solo perché fai fuori un quarto delle imprese, perché se non, come spiegava De Felice, aggiorni, digitalizzi, rendi più competitive sui prodotti, sui processi, le porti sui mercati o come fornitore o come, diciamo, produttori finali, anche quel 75% non si muove. Poi, dopodiché, è verissimo che chi è tornato, ma mi sembra che l'abbia spiegato bene, ai livelli del 2008 è chi è sopravvissuto a questa decimazione. Per cui è ovvio che tu dici siamo tornati, ma siamo meno. Siamo tornati ad avere una redditività sugli investimenti identica a quella del 2000, praticamente del 2007, ma ci guardiamo dietro e un quarto di noi non c'è più. Questo per un fronte. L'altro che mi dice, ma insomma, dove vivete da noi? Io dico una cosa, però vorrei sentire anche De Felice su questo. Attenzione, perché noi possiamo mettere tutti i distinguo che vogliamo e lo stiamo facendo, attenzione, i valori sono tornati al 2007 ma con un quarto di imprese in meno, ragionamento analogo per l'occupazione, si è tornati all'occupazione ma si lavora di meno, l'hanno spiegato bene i nostri ospiti, quindi sì, hai lo stesso numero di occupati ma le ore lavorate mancano ancora 1,5 milioni di posti di lavoro, l'appello, che vuol dire che siamo tornati a lavorare come nel 2008 ma lavoriamo di meno e quindi con il reddito più basso. Però negare che vi sia un miglioramento del ciclo economico, questo io non lo capisco. Rischiate di restare come gli ultimi giapponesi a urlare da soli. De Felice. Insomma, se vogliamo dire che non abbiamo risolto tutti i problemi dell'economia italiana, siamo d'accordo. Abbiamo una disoccupazione giovanile altissima, abbiamo il problema del debito pubblico, siamo in ritardo su tante infrastrutture e tutti punti pienamente condivisibili. Non si può però negare che oggi cresciamo all'1,5% o all'1,6%, mentre 2 anni fa eravamo ancora in recessione o crescita vicino allo zero. Certo non basta un anno di crescita a questo livello, credo che la nostra ambizione possa essere quella di avere una crescita simile a quella della Germania, che oggi è al 2%, però ci vogliono anni di crescita a questi livelli per colmare dei gap accumulati in 20 o 30 anni e di cui stiamo pagando le conseguenze. Insomma, questa grande recessione che abbiamo avuto è la conseguenza di un enorme debito pubblico che ha provocato la crisi del debito sovrano e tutte le misure di correzione, di austerità che sono state necessarie per non fare default. Se valutiamo l'impatto di quelle misure, parliamo di circa 150 miliardi di euro di correzioni fiscali tra pensioni e tante altre cose. Questo l'abbiamo pagato con posti di lavoro e altri drammi, però ne stiamo venendo fuori. Il problema è che il debito è ancora al 130% del PIL, quindi per il momento godiamoci l'1,5% nella piena consapevolezza che non basta. Nessuno l'ha mai detto, no. Questo. No, ma infatti nessuno ha mai detto che basti. Così come le 4 milioni di famiglie, secondo l'INPS, povere, nessuno sta negando questo. Ma una volta che abbiamo detto che è questo, non puoi non notare le differenze o gli scostamenti, se sono in positivo o in negativo. E per fortuna gli scostamenti sono in questo periodo in positivo, che non vuol dire che la situazione vada bene. Mi fa impazzire perché lo stesso ascoltatore adesso mi dice adesso l'analisi è più equilibrata. Guardi, io sono contento per lei, la stessa cosa che dicevamo 5 minuti fa. Grazie Gregorio De Felice, andiamo sul traffico. Focus Economia. Andiamo sulla borsa, mi scrive un altro ascoltatore: questi studi dall'alto hanno poco a che fare con la realtà, è meglio fidarsi delle proprie sensazioni dal territorio dove tutta sta ripresa e tutto da dimostrarsi. Sono in totale disaccordo con lei. Perché se andiamo a fidare, certo che uno si muove, va a fare la spesa, parla con le imprese e anche sottoscritto, ma se ci limitiamo solo alla nostra personale esperienza, allora se io abito in un'area del nord-est che ha tassi di disoccupazione tornati quasi ai livelli pre-crisi, devo dire che tutto va bene, madama la Marchesa, e siamo tutti felici e contenti come nel 2007. Se sto in un'area magari anche del centro-nord, a maggior ragione del sud, devo dire no, la situazione è disastrosa. Allora cosa facciamo? Prendiamo 1000 pareri? Prendiamo il dato aggregato che serve a quello, pur con moltissimi distinguo dentro, i famosi poli di Trilussa, ma un po' ti serve per capire se si sta un pochino meglio o un pochino peggio. Più 1,60% Milano, devo dire con Parigi più 1,50%, Francoforte più 1,40%, Londra, che non ha appunto l'euro e non risente delle parole di Mario Draghi e delle decisioni di Mario Draghi, solo 0,5% di rialzo, Dow Jones più 0,30%, è chiaro che c'è un effetto BCE sui mercati dell'area euro, ma su ST Microelectronics c'è un effetto ST Microelectronics più 12%. Eleonora Michele, Radio Colli Sole 24 ore, buonasera. Buonasera, sì, peraltro in un giorno in cui invece il settore diciamo tecnologico è stato messo sotto pressione da Nokia, che ha pubblicato conti disastrosi con una perdita che è peggiorata del 61%. D'altra parte, come hai detto tu, invece ST è stata la migliore del listino, più 12% praticamente dopo che viene da diciamo mesi di rialzo, e peraltro l'anno scorso era stato il miglior titolo di Piazza Affari. E d'altra parte la società sta migliorando grazie alle commesse della Apple, ha annunciato conti del terzo trimestre nettamente superiori alle attese, e inoltre ha rivisto al rialzo anche le stime per gli ultimi 3 mesi dell'anno. In totale il giro d'affari del 2017, ha annunciato l'amministratore delegato Carlo Bozzotti, dovrebbe salire del 18%, e solamente a maggio la società invece aveva messo in conto un progresso del fatturato attorno al 14%. Allora, questo per quello che riguarda ST Microelectronics, che complessivamente l'andamento di borsa. Enel più 3,30, bene anche Fiat Chrysler più 3%, Campari più 3,32, Finecobank più 2,91. Ecco, le banche oggi sono state un pochino più contrastate, no? Sì, le banche infatti sono state contrastate, hanno più volte cambiato l'andatura di marcia. Unicredit ad esempio andava bene, invece ha chiuso in calo dello 0,17%, Biper, che è stata venduta a piene mani per tutta la seduta, alla fine è riuscita a chiudere sulla parità. Debole Banco BPM, meno 0,39%, invece più forte UBI, più 0,63%, meglio ancora Intesa, salita dell'1%. Le banche ovviamente ci si interroga anche sulla politica monetaria, lo stesso Mario Draghi ha detto che i tassi di interesse rimarranno attorno allo zero, rimarranno bassi anche dopo la fine del quantitative easing, ovvero dopo il settembre del 2018, e quindi questo ovviamente è una buona notizia per l'economia, ma magari un po' meno per le banche. E dopo andremo ad analizzare, dico dopo il GR24, andremo ad analizzare anche invece chi ha perso in maniera più netta, penso al settore lusso soprattutto oggi, per poi arrivare a un'analisi dettagliata delle prospettive che apre il discorso di Mario Draghi fatto oggi, quando ha annunciato da un lato tassi invariati, dall'altro però riduzione, dimezzamento dell'acquisto di titoli di Stato da gennaio, da 60 si scende a 30. Miliardi, non posso tornare sui settori produttivi anche oggi, cioè l'abbiamo appena fatto con De Felice, vedo, mi scrive dunque, non tutti hanno il tuo stipendio, ignorante, ti auguro di finire in miseria insieme alla tua famiglia, vergognati di prendere per il quelli che soffrono, bastardo paranoico. Beh, devo dire che ha capito esattamente i termini del ragionamento che abbiamo appena fatto. GR24. Sono Enrico Ruggeri, storie che colpiscono al cuore questa settimana al Falco e il Gabbiano. Non solo un outsider, ma un grande cantautore rock, Tom Petty. In occasione del centenario della disfatta di Caporetto, la battaglia raccontata dal grande scrittore Carlo Emilio Gadda. e poi voliamo sulle ali di carta fin dentro al Louvre per scoprire un fantasma, Belfagor. Un campione che ha dato al calcio forse più di quello che ha ricevuto, Giovanni Lodetti. Una delle artiste più eclettiche che abbiamo in Italia, Rita Pavone. Tutti i giorni alle 15 il Falco e il Gabbiano su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. To let myself 18 e 8 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Stavamo concludendo l'approfondimento di borsa con Eleonora Micheli. Dicevo, oggi un po' debole il settore moda lusso, Moncler meno 1, Yoox Saint-Porté meno 0,70, Ferragamo meno 0,20%, fuori da questo settore cedono anche Telecom meno 0,40, Saipem meno 0,60 e Leonardo ex Finmeccanica lo 0,50%. Eleonora. Sì, va detto che i titoli erano andati bene nelle scorse sedute sulla spinta dei buoni conti di Kering con la controllata Gucci che ha fatto più 50, quasi più 50% le vendite del terzo trimestre. Detto questo, oggi a guidare i ribassi è stata Moncler che ha lasciato sul parterre l'1% sulla notizia che il fondo Eurasio, che è presente nel capitale sin dal momento dell'IPO, ha limato la propria quota dopo che ieri i titoli hanno appunto toccato nuovi massimi storici. Il fondo evidentemente ha deciso di vendere un po' di azioni, esattamente il 3,34%, e ha sottigliato la propria partecipazione da oltre il 9% al 6,1%, e quindi ovviamente anche l'offerta di queste azioni sul mercato ha fatto traballare le quotazioni. E peraltro ha trascinato leggermente al ribasso anche le Salvatore Ferragamo, meno 0,18%, in questo caso si aspetta anche la trimestrale che dovrà essere annunciata il prossimo novembre. Ancora per quello che riguarda i migliori e peggiori della seduta, andiamo rapidamente. Banca Intermobiliare BIM oggi recupera un po' del tonfo di ieri, più 17%, Steam Macroelectronics abbiamo detto, Neurosoft più 10,60, Molmed più 7,20, Mondo TV più 6. Fronte opposto, Nokia Corporation meno 17, Jequity meno 8%, Biancamano meno 5,30, Lazio meno 5, Ross meno 3,90%. Grazie Eleonora Micheli. Prima di arrivare, vi arriviamo subito alla BCE, vorrei però leggere una notizia che in realtà è arrivata ieri in serata, però riguarda Trump. A me non me ne frega nulla se Trump piace o non piace. Abbiamo detto in tempi non sospetti che la cosa paradossale delle elezioni di Trump è che i voti massicci li ha ricevuti dalla cosiddetta Rust Belt, dalla Rust Belt, cioè dalla parte operaia degli Stati Uniti, la cerchia della ruggine, le grandi aziende produttrici di auto e non solo. E però lui i favori più grossi li avrebbe fatti a Wall Street, perché lo disse in campagna elettorale, disse: io voglio eliminare alcune delle leggi su Wall Street già timidamente messe da Obama. Ricordo che erano leggi che servivano a rendere più difficile il passaggio tra banca d'affari e banca retail, che lavora con i risparmiatori, cioè utilizzare i soldi dei risparmiatori per fare speculazioni derivati, che poi è alla base di quella bellissima crisi finanziaria che inizia nel 2007 e nel 2008 al suo apice con Lehman Brothers. Ebbene, devo dire che è di parola, perché il vicepresidente statunitense Mike Pence ha usato il suo voto per sbloccare, il Senato statunitense era bloccato su questo, per sbloccare l'impasse al Senato e revocare le nuove norme che avrebbero consentito ai consumatori di fare causa alle loro banche. E quindi questa viene vista come la più grande vittoria di Wall Street e delle grandi banche d'affari americane da quando è arrivato Donald Trump. Le norme, secondo le stime, rischiavano di costare miliardi di dollari al settore finanziario, e con il voto di ieri, in tarda serata appunto, Wall Street inizia a vedere quello che Trump aveva promesso, ossia di abolire le leggi su Wall Street che nella sua visione soffocavano l'economia americana, io aggiungo soffocano casomai la finanza americana, non l'economia americana. Comunque, Wall Street ringrazia, noi adesso ci occupiamo della Banca Centrale Europea. Soy el fuego que... Il Consiglio direttivo ha preso le seguenti decisioni. Primo, i tassi di interesse sono stati mantenuti invariati e continuiamo ad aspettarci che rimangano ai livelli attuali per lungo tempo e ben oltre l'orizzonte del piano di acquisti. Secondo, circa le misure straordinarie di politica monetaria, continueremo a effettuare acquisti all'attuale ritmo mensile di 60 miliardi fino a fine dicembre 2017. A partire da gennaio 2018, gli acquisti proseguiranno a un ritmo mensile di 30 miliardi fino a fine settembre 2018, o oltre, se necessario. E comunque, finché il Consiglio non vedrà un aggiustamento adeguato nel cammino dell'inflazione, coerente con il suo obiettivo. Se lo scenario diventa meno favorevole, o se le condizioni finanziarie non saranno in linea con i progressi verso un aggiustamento nel percorso dell'inflazione, siamo pronti ad aumentare il piano di acquisti in termini di dimensione e o durata. Terzo, Eurosystem reinvestirà i principali pagamenti dai titoli di scadenza acquistati nell'ambito del piano per un lungo periodo dopo la scadenza degli acquisti e comunque per tutto il tempo necessario. And in any case, for as long as necessary. Soy el fuego que... Oh, devo dire che in questo passaggio c'è tutta la notizia di oggi, quindi quantitative easing, l'acquisto di titoli di Stato che verrà dimezzato da gennaio, da 60 miliardi al mese a 30, ma tassi di interesse che resteranno bassi a zero per un periodo di tempo superiore anche a quello che dovesse essere la fine del quantitative easing. E poi torno su quello su cui avevamo aperto, il fatto che Draghi abbia detto non voglio che venga usata la parola tapering. Il tapering è quello che ha fatto la Federal Reserve, la Banca Centrale Americana, nel ridurre gradualmente, ma ridurre in maniera graduale ma continuativa, l'acquisto di titoli di Stato. E non è un dettaglio da poco, perché è la differenza tra un percorso che è iniziato, o se ho ben capito, ma chiedo conferma a Alessandro Melli del Sole 24 Ore in collegamento da Francoforte. Buonasera Alessandro. Sì, buonasera a voi. Oppure se Draghi ha detto un'altra cosa, io adesso riduco ma sono pronto anche a tornare ai 60 miliardi, allo stimolo di prima, se necessario. Sì, esattamente quello che ha detto Draghi, ha detto qui dimezziamo, però siccome siamo fiduciosi ma ancora non ci siamo per quello che riguarda il raggiungimento del nostro obiettivo di inflazione, se la situazione dovesse peggiorare siamo pronti di nuovo ad aumentare gli acquisti. È possibile ritenere che questa sia una cosa improbabile, però vuol dire che Draghi si è lasciato aperto una porta e comunque ha detto anche un'altra cosa molto importante, che a settembre dell'anno prossimo gli acquisti non cesseranno in modo brusco e improvviso, il che fa presumere che dopo settembre il QE continuerà. Ringrazio anche il professor Franco Bruni, che insegna economia monetaria internazionale all'Università Bocconi di Milano. Buonasera professor Bruni. Buonasera. È per questo, secondo lei, che il mercato ha reagito così bene nell'area euro alle parole di Draghi, al bellissimo inglese che adoro, così faccio contenti? È un grande, quanto mi piace l'inglese di Draghi, non l'ho detto, lo dico adesso in ritardo. Dicevo, è questo il motivo per cui i mercati hanno reagito così bene, perché lui ha detto sì, riduco, ma attenzione, non è una riduzione continuativa, i tassi restano a zero e ancora non ci siamo. Sì, diciamo nel decidere se si tratta di una decisione, quella di oggi, diciamo di falchi o di colombe, cioè di politica monetaria che continua a essere espansiva nonostante tutto, oppure di inizio di una vera restrizione, direi che è importante cogliere anche l'informazione che ha dato Draghi in conferenza stampa oggi, quando ha confessato che c'è stata discussione su un punto importante, che è quello di mettere o no una data finale a tutto quanto. e lì devono aver discusso abbastanza a fondo, se capisco bene. E se con le stesse provvedimenti di oggi fosse stato aggiunto una data almeno di riferimento per decidere poi la fine, avrebbe avuto tutto un altro sapore questa decisione. Invece così è open end, insomma, è molto flessibile ancora, insomma, quindi se i mercati volevano ancora un po' d'acqua ce l'hanno. Da questo punto di vista però, Alessandro Melli, dopo il traffico ti chiederò un'altra cosa, che Draghi ha detto anche la BCE come sempre è ready to act, io non ho un inglese così bello come quello di Mario Draghi, ma insomma è pronta ad agire, e anche questo forse che ha tranquillizzato i mercati. Io sono d'accordo con il professor Bruni che se solo fosse arrivata una data avremmo iniziato a vedere un pochino di speculazione, per modo di dire un pochino, già sui titoli italiani. Detto questo, Alessandro, la Banca Centrale Europea ormai ha attivi per 4.000 miliardi di euro, quindi quello che ha comprato in questi mesi. Mi chiedo quanto potrà restare con questi attivi, anche perché appunto un mese non fa la differenza, ma prima o poi la data forse dovrebbe arrivare, ma probabilmente tu mi dirai che è il contrario. Ti chiedo solo di aspettare un minuto. Focus Economia. Soy el fuego que... Di nuovo in diretta, allora Alessandro Melli, tutto bene? Draghi ha tranquillizzato i mercati, l'orizzonte non ha messo una data su quando finirà l'acquisto dei titoli di Stato, ossia quando la BCE finirà di accollarsi anche il rischio Italia sui mercati, lo dico chi mi sta scrivendo, però prima o poi deve farlo, insomma 4.000 miliardi di attivi non è poco, Sì, la BCE sicuramente continuerà ad acquistare fino a settembre e forse oltre, da quello che ha detto oggi. Indubbiamente lo stock, diciamo, la consistenza, le dimensioni del suo bilancio continueranno ad ampliarsi, anche perché appunto continuerà a reinvestire i titoli che ha già acquistato, che man mano vengono a scadenza, continuerà a reinvestirli. Quindi questa bilancio della BCE continua ad ampliarsi. Questo per la BCE in questo momento è il fattore più importante per tenere i tassi di mercato bassi. Questo l'hanno detto in vari modi, c'è stato uno studio di tre economisti della BCE, ma insomma in qualche modo è apparso molto chiaro. Se ho ben capito, prima dell'interruzione dicevi, ma a un certo punto dovranno anche cominciare, sì, a ridurre questa massa di titoli che hanno in portafoglio. A Draghi non piacciono molto i confronti con la Fed, però se guardiamo a quello che ha fatto la Fed sta cominciando solo ora, cioè ha appena annunciato che comincerà a ridurre il proprio bilancio, quindi diciamo o a lasciar scadere senza più reinvestire o comunque ad asciugare questo enorme bilancio che a sua volta la Fed lo sta facendo adesso. Non dimentichiamo che la fine degli acquisti della Fed è stata nel 2014, quindi sono passati 3 anni dalla fine del QE della Fed. Dopo 15 mesi la Fed ha fatto il primo rialzo dei tassi e oggi, 3 anni dopo, sta cominciando ad asciugare il bilancio. Quindi diciamo che questa non è un'ipotesi imminente nel caso della BCE, che sicuramente con la decisione di oggi ha spostato in avanti la data del primo rialzo dei tassi, perché se, come Draghi ha ribadito oggi, questo dovrà venire ben oltre, è la frase, no, utilizzata, l'espressione utilizzata nelle comunicazioni della BCE, se il primo rialzo dei tassi andrà ben oltre la fine del QE, e sappiamo oggi che il QE andrà almeno fino al settembre 2018, stiamo parlando di un primo rialzo dei tassi non prima del 2019, forse la seconda metà del 2019. Il professor Bruni, la riduzione del bilancio avverrà ancora più tardi, lo presumo. Quindi la cessione dei titoli di Stato comprati in questi mesi, in questi anni. Professor Bruni, chiedevo questo ad Alessandro Melli perché io, da un lato, se posso fare una battuta, spero che nessun politico abbia ascoltato questa analisi di Alessandro Melli in Italia. Perché glielo dico? Perché noi sappiamo che insomma, le stime sono che quando dovesse completamente finire l'acquisto dei titoli di Stato da parte di Mario Draghi, da parte della BCE, torneranno a salire un po' gli interessi italiani, finirà questo effetto morfina, posso chiamarlo così, sul rendimento dei titoli di Stato italiani, e il costo è calcolato circa in 25, fino a 25 miliardi in più da qua a, entro il 2020. Perché lo dico? Perché ho la sensazione che di tutti i temi di cui si occupa la classe politica italiana, anche in previsione della campagna elettorale, il tema cosa faremo quando Draghi smetterà di accollarsi il rischio Italia sui mercati, non lo ascolto da nessuna parte. Non vorrei che finisse come il bail-in, che l'abbiamo adottato, non l'abbiamo capito, e quando l'abbiamo dovuto applicare per primi Etruria, Marche, Chieti e Ferrara, ci siamo accorti che il bail-in prevedeva alcune cose. Ecco, mutatis mutandis, non vorrei che adesso la classe politica stesse così ignorando quello che si profila all'orizzonte. Sì, credo che lei abbia ragione, anche perché questo QE è effettivamente molto, distorce molto il credito a favore del settore pubblico. Oggi nella conferenza stampa è stato, secondo me, importante vedere come il vicepresidente ha insistito su un aspetto che riguardava invece il controllo dei crediti andati a male, insomma, le sofferenze e la regolamentazione del rischio delle banche in generale. È stato estremamente duro nel dire che la BCE vuole ridurre la propensione, la possibilità delle banche di fare nuovi prestiti troppo rischiosi che possono andare male. Quindi abbiamo una grande creazione di liquidità con le banche che vengono molto controllate nell'erogare il credito più rischioso. E questo vuol dire praticamente che la liquidità è canalizzata verso i titoli di Stato, insomma, e siccome l'Italia è di gran lunga quella che ne mette di più, noi abbiamo lì un problema che potrebbe emergere anche nei prossimi mesi, in verità, perché il materiale non italiano per comprare, per fare questi acquisti sta rarificandoci sempre di più, quindi può anche darsi che Draghi abbia qualche problema nelle prossime, soprattutto se i tedeschi prendono una posizione un po' più dura nel momento in cui fanno il governo, insomma, perché per adesso non c'è ancora un governo in Germania, insomma, nuovo. Chiaro, qualcuno mi chiede, ma questo che cosa vorrebbe dire per i nostri politici? Vorrebbe dire che quando fai un piano di politica economica, di andamento dei conti pubblici, di deficit e debito, di utilizzo delle risorse, devi tener conto del fatto che prima o poi questo grosso vantaggio di risparmiare fino a 25 miliardi di interessi sul debito non ce l'avrai più. E quindi è come se una famiglia dovesse dire: fra due anni c'è il rischio che il mio mutuo, poniamo, aumenti, perché mi aumenta il valore del mutuo, e quindi quando faccio i piani su come fare gli investimenti, su cosa risparmiare da qua ai prossimi 2-3 anni, se sono un bravo padre di famiglia mi rendo anche conto che nel 2019, diciamo 2019 come data, o fine 2018, non avrò più certi benefici sui soldi che mi stanno uscendo. Tutto qui. E allora mi sembra che non sia ancora un tema, forse l'orizzonte 2018-2019 per la nostra classe politica è praticamente 2001 di sé nello spazio, cioè una cosa che arriverà fra secoli e secoli. Grazie intanto ad Alessandro Merli in collegamento con noi da Francoforte e al professor Franco Bruni. Noi ci risentiamo domani, purtroppo, lo dico per fortuna, torna anche la poco invidiabile classifica del programma. Radio 24, libera la voglia di fare.